E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La sentenza su Marcello Dell'Utri non è ancora irrevocabile, mancando il parere della Cassazione, ma il cittadino ha il diritto di prendere posizione sull'affermazione del senatore secondo cui Mangano, condannato a suo tempo per mafia e omicidio, è il suo eroe. La sentenza non è definitiva. Marcello Dell'Utri è stato condannato in secondo grado per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Il PDL, partito doppiamente suo perché il senatore è fondatore di Forza Italia, che lo precedette, e parlamentare, avrebbe la possibilità di trarre conseguenze politiche e morali dalla grave vicenda. Così come possiamo fare noi cittadini, chiedendoci quanto influisca tuttora una simile origine o quanto vi pesi una siffatta appartenenza. Ma Dell'Utri non è colpevole finché non vi sia una sentenza irrevocabile. Abbiamo il diritto, tuttavia, di prendere posizione sulla sua terribile frase secondo cui Mangano, condannato a un tempo per mafia e omicidio, è il suo eroe. Non solo Dell'Utri ha detto queste parole, ma molti le hanno approvate e di fatto condivise, dicendosi solidali con lui. Il presidente dei giovani del PDL in Sicilia ritiene che la condanna, gravissima per un politico, debba far molto riflettere. E vuole per eroe Borsellino. Ma il livello nazionale lo sconfessa. I club giovanili dell'isola sostengono che il senatore soffrirebbe la gogna giudiziaria. Sanno quello che dicono? Hanno idea di che cosa significherebbe un paese in cui pubblici ministeri, giudici di diversi gradi e funzioni si prestassero a condannare un innocente? E per quale imposizione o pressione irresistibile? Non lo sanno e non lo credono. Ma lo dicono e trovano adulti nella loro parte, politici, parlamentari, commentatori, che li incitano, pretendono la menzogna, soddisfatti di corrompere il loro cuore. Se un mafioso omicida è l'eroe, tutto è possibile, ogni obnubilamento delle coscienze, ogni turpitudine. Dell'Utri ha dato scandalo, Mangano è l'eroe, all'ombra di tale eroe egli proclama la propria innocenza. Gli sventurati che attaccano i giudici come autori della gogna ed esaltano il senatore che parla a quel modo, implicitamente accettano la glorificazione dello stalliere mafioso. Comincio, lo confesso ai lettori dopo quasi 40 anni di colloquio, ad avere paura. Avete ascoltato l'articolo «Ma l'eroe Mangano o Borsellino?» di Adriano Sansa, da Famiglia Cristiana dell'11 luglio. Per Massimo Fini, lo sciopero dei giornalisti sul DDL intercettazioni è stato un atto pretestuoso. Improvvisamente i giornalisti si accorgono delle storture del processo penale italiano solo perché una legge li colpisce direttamente. Sono contrario allo sciopero dei giornalisti indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa contro la legge sulle intercettazioni, anche se naturalmente mi adeguerò alle decisioni del nostro sindacato. Sono contrario però per ragioni diverse da quella sostenuta da Marco Travaglio su questo giornale, e cioè che volendo lottare per la libertà di stampa, noi con lo sciopero finiamo per imbavagliarci da soli. Non si tratta di questo. Lo sciopero dei giornalisti è per sua natura e con tutta evidenza un'azione corporativa diretta contro le pesanti sanzioni che la legge prevede per cronisti ed editori che divulghino il contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali nella fase delle indagini preliminari, che a mio parere sono sacrosante, e non contro le limitazioni imposte all'autorità giudiziaria nelle sue attività di indagine, che sono invece totalmente inaccettabili. Uno sciopero dei giornalisti contro questa parte della legge sarebbe di per sé incomprensibile. Se i giornalisti ritengono che una norma che non li riguarda direttamente è ingiusta, non fanno sciopero, danno battaglia attraverso i media che hanno a disposizione, così come non scioperano, poniamo, contro la manovra finanziaria. E in questa vicenda si scontrano tre interessi diversi e contrapposti. Primo, l'interesse della collettività a reprimere attraverso l'azione della magistratura i reati e a punire i rei. Secondo, l'interesse del singolo cittadino, coinvolto a qualsiasi titolo in un'inchiesta penale, a vedere rispettata la propria riservatezza e la propria onorabilità. Terzo, L'interesse della collettività a conoscere, anche attraverso i media, fatti penalmente rilevanti. L'interesse alla repressione dei reati è primario in ogni fase di un procedimento penale. La magistratura non ha il diritto, ma il dovere di fare, motivandole, tutte le intercettazioni che ritiene opportune, senza limiti di spazio e di tempo. Ricordiamo che si tratta della magistratura e non, come fa finta di equivocare Berlusconi quando straparla di Stato, di Polizia, della Digos o dei servizi segreti. Cosa diversa è la divulgazione di queste intercettazioni. Nella fase delicata e per sua natura incerta delle indagini preliminari possono essere coinvolte persone che risulteranno totalmente estranee ai fatti sotto inchiesta e raccolti elementi ininfluenti ai fini del giudizio. In questa fase l'interesse individuale al rispetto della propria onorabilità prevale su quello collettivo alla conoscenza. In ragione di questo interesse, oltre che del buon andamento delle indagini, il codice Rocco, prima della sgangherata riforma Pisapia del 1989, imponeva il segreto per tutti gli atti istruttori. La sua debolezza stava nel fatto che le pene previste per i giornalisti e gli editori che violavano il segreto erano risibili, ammende pecuniarie di modestissima entità che i quotidiani e i settimanali erano ben lieti di pagare, in cambio di uno scoop molto più remunerativo sul piano delle vendite e delle immagini. Al dibattimento la situazione si capovolge, perché in questa fase non arrivano più persone genericamente indagate, ma imputati sul cui conto la magistratura, rinviandoli a giudizio, ritiene di aver raccolto indizi consistenti. Inoltre, la pubblica accusa porterà al processo solo quei fatti che sono realmente utili al giudizio. Qui l'interesse pubblico alla conoscenza prevale su quello privato alla riservatezza. C'è inoltre da sottolineare che la pubblicità del dibattimento è a tutela dello stesso imputato, perché è qui che l'opinione pubblica, oltre naturalmente ai giudici giudicanti e alle difese, può controllare che nella fase istruttoria non ci siano stati abusi e distorsioni. Infatti, negli stati democratici, l'istruttoria è segreta e il dibattimento pubblico. In quelli totalitari anche il dibattimento si svolge a porte chiuse. Questo è l'impianto concettuale, piuttosto chiaro. C'è però un ma grande come una casa. In Gran Bretagna, se c'è un indagato detenuto, le istruttorie durano mediamente dai 28 ai 32 giorni a seconda della diversa composizione del giurì e quindi della diversa gravità del reato, per cui è ragionevole pretendere dai media la massima cautela, tanto che anche chi è preso con le mani nel sacco non può essere indicato altrimenti che come persona informata dei fatti. In Italia le istruttorie, ci siano detenuti o no, possono durare degli anni, ed è quindi ovvio che un divieto di pubblicazione protratto per un così lungo tempo si risolve in una inammissibile mordacchia alla libertà di stampa. Ma è su questo chiodo fondamentale, l'abnorme lunghezza del processo all'italiana, che si trascina dietro tutte le altre storture che i giornali e i giornalisti avrebbero dovuto battere da tempo. Invece non l'hanno fatto, perché tutto sommato la situazione stava comoda anche a loro. La lunghezza delle istruttorie gli permetteva di invocare il sacro diritto dovere di informare, che non è assoluto, come nessun diritto è assoluto, ma incontra dei limiti in altri diritti ugualmente meritevoli di tutela, come in questo caso il diritto alla privacy. I giornalisti si accorgono improvvisamente delle storture del processo penale italiano solo perché adesso una legge, giusta per una parte, inaccettabile per un'altra, li colpisce direttamente. Ora, noi non siamo così sprovveduti da non sapere che questa legge berlusconiana non ha affatto lo scopo di tutelare l'onorabilità degli innocenti, ma quello di mettere al riparo dalle indagini i mascalzoni e soprattutto i grandi mascalzoni. Ma i giornalisti in sciopero sarebbero più credibili se a tempo debito fossero scesi in campo con convinzione e con forza per ottenere una ragionevole durata dei processi che tutelerebbe insieme tre diritti fondamentali: il diritto della magistratura a svolgere nell'interesse della collettività le indagini senza limiti pretestuosi, il diritto del cittadino indagato e spesso anche non indagato a non essere sputtanato anzitempo, il diritto della stampa a dare le notizie di interesse pubblico. Avete ascoltato l'articolo Uno sciopero pretestuoso di Massimo Fini da Il Fatto Quotidiano dell'8 luglio.